12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi cercheremo di dare una lettura del mercato del lavoro odierno da un punto di vista femminile. Gli ospiti, rigorosamente donne come già vi avevo anticipato la scorsa settimana, ci racconteranno la loro esperienza in due mondi molto differenti. Da un lato quello della libera professione e dall'altro quello del lavoro dipendente in una grande azienda. A proposito di occupazione al femminile, vi do alcuni dati raccolti dalla Commissione regionale Pari Opportunità e Veneto Lavoro, che hanno redatto un rapporto di disamina sulla situazione appunto lavorativa delle donne nell'anno 2011, con l'obiettivo di capire come la crisi del mercato del lavoro di oggi abbia colpito in modo diverso lavoratrici e lavoratori. Da questo rapporto emerge che le donne occupate sono il 41,5% dell'occupazione totale e rispetto agli uomini le donne appunto che lavorano sono più giovani e più istruite. Il rapporto mette in luce anche come le donne, pur avendo lavori peggio pagati, sono più facilmente assumibili poiché vanno a coprire ambiti occupazionali in cui gli uomini sono poco presenti o in cui dovrebbero essere pagati meglio. Ovviamente si parla di maggiore facilità di assunzione, dove dall'altro lato della bilancia in generale troviamo maggiore flessibilità e rapporti di lavoro brevi e precari. In ogni caso, per chi volesse avere tutti i dati presenti nel rapporto, può collegarsi al sito della Commissione regionale Pari Opportunità della Regione Veneto ed andare ad approfondire appunto tutti i diversi aspetti esaminati. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E dopo aver parlato di dati ufficiali regionali, cerchiamo di sentire dal vivo il punto di vista delle giovani donne lavoratrici chiamate in causa e diamo quindi il benvenuto alla nostra prima ospite. Sara Voltolina, benvenuta a 12 minuti. Grazie, buongiorno a tutti. Sara, come prima cosa partiamo con il tuo identikit. Età? Allora, io ho 31 anni. Dove vivi? Io vivo a Mestre, in provincia di Venezia. Titolo di studio? Allora, io sono laureata in architettura con il vecchio ordinamento, dunque i 5 anni classici, e l'ho conseguita presso l'Istituto Universitario IUAV di Venezia nel 2006. Oggi la tua situazione lavorativa qual è? Si può dire che al momento sono occupata, diciamo, su due fronti, quindi da una parte porto avanti piccoli progetti che mi sono stati affidati da privati e che consistono in ristrutturazione di abitazioni o ripensamento dell'arredamento interno, quindi si tratta sostanzialmente di richieste da parte di committenti di rinnovare con modeste modifiche le loro abitazioni, anche sulla distribuzione interna degli arredi. E d'altra parte invece sono impegnata in una piccola collaborazione con una cooperativa che promuove insieme alle figure professionali progetti di promozione e formazione giovanile. Ecco Sara, qual è stata la tua esperienza, sempre parlando di lavoro, da dopo gli studi ad oggi? Dunque, premettendo che per quanto riguarda la figura professionale dell'architetto non c'era l'obbligo di un praticantato o tirocinio dopo aver conseguito la laurea. Solitamente un architetto neolaureato, come lo ero anch'io, si concentra inizialmente sull'esame di Stato, che permette l'iscrizione a un ordine professionale e di conseguenza poi la possibilità di firmare i progetti e più in generale di essere abilitato appunto alla professione di architetto. E allo stesso tempo io ho iniziato poi a cercare lavoro all'interno di studi di architettura privati che necessitavano di collaborazione di neolaureati, e diciamo che per il primo anno la collaborazione consiste in una sorta di praticantato, ecco, dove la retribuzione è minima o inesistente, trattata chiaramente o in nero o con contratti fatiscenti. Poi dal primo anno in poi, di pari passo con la crescita professionale, aumenta anche un po' la retribuzione e che viene gestita solitamente con l'apertura della partita IVA, ecco. Ecco Sara, secondo te essere donna in una professione come la tua fa la differenza in qualche modo? Ma finora diciamo non ho avuto una percezione forte che il fatto di essere donna all'interno della mia realtà professionale fosse un elemento di differenza. Diciamo che ci sono due momenti forse che creano la differenza. Uno forse al momento, ecco, della maternità, che ancora non ho vissuto, ma che ho visto che forse ha creato qualche problema, qualche figura professionale. D'altra parte invece la differenza sta forse nel contatto con l'esterno, e per esterno mi riferisco ai cantieri, alle imprese di costruzione, agli artigiani, che è un mondo prettamente maschile, dai, possiamo dire, o maggiormente maschile. È un mondo maschile, e alcune di queste realtà, perché non si può generalizzare troppo, forse non sono ancora abituate a confrontarsi con persone molto giovani, e forse tantomeno con il sesso femminile. Cioè, certo. C'è il pregiudizio che alcune donne giovani non abbiano ancora l'esperienza sufficiente per calarsi all'interno di cantieri, ecco. Ma Sara, sì. Appunto, il problema forse non è essere uomo o donna, ma consiste appunto nelle reali occasioni che i giovani architetti hanno di seguire tutto ciò che riguarda il momento della costruzione, e sono momenti che appunto non capitano molto spesso. Assolutamente. Sara, grazie per essere stata a 12 minuti e averci raccontato la tua esperienza. Grazie. E ora proseguiamo la nostra puntata tutta al femminile, ascoltandoci il pezzo Stared Stars di Valium Doll, che nasce da un'idea di Chiara Willow. Sometimes more and sometimes less, what about respect? Waiting for another chance, what is that I reflect? I have something to clean, there were so minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, nella puntata di oggi si parla di lavoro al femminile e diamo subito il benvenuto alla nostra seconda ospite, Michela Privitera. Ciao Michela, benvenuta a 12 minuti. Ciao Giovanna, ciao. Michela, ci racconti chi sei e che lavoro fai in questo momento? Allora, in questo momento mi occupo del lavoro in Siemens Italia nella divisione software, e sono la responsabile italiana per l'antipirateria del software della Siemens, quindi mi occupo di legalizzazioni e contraffazione pirateria informatica. Ecco, il tuo percorso di studi, Michela, qual è stato? Ho iniziato con una laurea in legge in Italia, a Ferrara, e dopodiché ho fatto la gavetta dalla pratica legale e poi ho iniziato la mia esperienza all'estero. Ecco, dalla laurea alla tua posizione attuale, quali sono stati secondo te i punti di forza e le eventuali criticità che hai incontrato? Sicuramente per una giovane donna al lavoro non è stato assolutamente semplice, sia per la giustizia che c'è in Italia per quanto riguarda esami, concorsi pubblici e quant'altro, e diciamo all'estero ancora di più ho trovato difficoltà perché poi non sono equiparati gli stessi titoli, eccetera. Quindi ho dovuto in primo luogo sapere bene le lingue. Ho vissuto sia in Spagna che negli Stati Uniti e quindi una formazione molto lunga e credo che con determinazione nella vita e insomma ovviamente molto studio, applicazione, uno possa sicuramente ottenere una buona posizione lavorativa. Quindi una forte motivazione, ecco, sicuramente sì, alla base. Sì, prima parlavi appunto delle difficoltà incontrate come giovane donna. Secondo te, per la tua professione, la componente di genere è importante e ovviamente in base alla tua esperienza, se lo è, in che termini? Purtroppo sì, lo è stato, lo è, penso che ancora una donna sia ancora incontra parecchie difficoltà nella società a farsi valere, soprattutto lavorativamente parlando, perché non si sa la motivazione, ma in questa società sicuramente è una società molto maschilista. Secondo me, però una volta che hai provato sulla tua pelle, fatto esperienze, comunque sei all'altezza del lavoro, hai provato non solo a te stesso ma anche agli altri cosa puoi fare, poi riesci ad avere, a ricoprire un ruolo insomma all'interno di questa società, con molta molta fatica, ma comunque alla fine diciamo la determinazione e la passione nelle cose premia sempre. Assolutamente. Michela, grazie per essere stata qui con noi e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, crepi il lupo, è stato un piacere, Giovanna. Ciao. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Siamo in chiusura di questa puntata e prima di salutarvi vi do alcune notizie che potrebbero tornare utili a giovani donne in cerca di lavoro. Entro il 30 novembre 2012 si potranno richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i contributi per progetti di durata massima di 24 mesi relativi al programma obiettivo per l'occupazione femminile. Con questo programma si promuovono azioni finalizzate alla costituzione o al consolidamento di imprese femminili, all'occupazione e al reinserimento lavorativo femminile, alla creazione di progetti integrati di rete. Per ogni progetto presentato il contributo è di 80.000 euro. Potete trovare tutte le informazioni sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è lavoro.gov.it. Il 16 novembre invece si terrà ad Udine il convegno nazionale dedicato ai nuovi percorsi per l'occupazione femminile dopo la riforma del mercato del lavoro. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito della provincia di Udine, www.provincia.udine.it. Infine vi segnalo Sportello Donne al Lavoro, che è un servizio di orientamento professionale del Comune di Venezia in collaborazione con la provincia di Venezia. Il servizio si rivolge a tutte le donne che si attivano alla ricerca di prima occupazione, che desiderano rientrare nel mondo del lavoro dopo un periodo di inattività, che desiderano cambiare la propria posizione professionale o che sono interessate ad avviare un'attività in proprio. Lo Sportello Donne al Lavoro organizza anche periodicamente delle sessioni di orientamento al lavoro rivolte a gruppi di donne con l'obiettivo di offrire informazioni e strumenti utili per la ricerca attiva di un'occupazione. Per avere informazioni sulle modalità d'accesso al servizio potete collegarvi al sito del Comune di Venezia, comune.venezia.it, nella pagina dedicata al Centro Donna. E con questa ultima informazione si conclude la nostra puntata, come al solito piccolissima anticipazione sulla prossima, che sarà dedicata al lavoro nel mondo del restauro. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.